Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. Vedo già molti messaggi quando torna la classifica. Allora, la poco invidiabile classifica tornerà. Mi sembra che in questo momento vi siano anche problemi un po' più seri rispetto alla classifica, ma tornerà. La classifica sugli sprechi della pubblica amministrazione tornerà appena, diciamo, la situazione potrà anche consentirlo, perché abbiamo notizie un po' più impellenti in questi giorni, e, però insomma, la promessa è che tornerà la classifica, non vi so dire ancora se dalla prossima settimana o fra due settimane. Stiamo lavorando anche su questo, diciamo, anche se vorremmo non lavorare sugli sprechi della pubblica amministrazione. Veniamo invece ai temi di questa giornata. Partiremo con un'analisi, giustamente fine settimana, anche quando inizia fine settimana, delle previsioni che sono state diffuse durante la settimana. Oggi è arrivata anche Prometeia con una stima peggiore di quelle diffuse nei giorni scorsi, mi riferisco anche a Standard & Poor's, meno 9,6% quest'anno, recupero pre-crisi solo nel 2023. Una stima interessante, perché dice i fondi del recovery saranno utilizzati dall'Italia solo al 70% del totale, a causa delle storiche difficoltà del nostro paese nel riuscire a scegliere e portare a termine progetti di investimento con scadenze così stringenti. Dopodiché la stima è di un meno 9,6% quest'anno, più 6,2% l'anno prossimo e più 2,8% nel 2023, quando dovrebbe venire, secondo Prometeia, il recupero completo dei livelli pre-Covid. Dalle risorse dell'Unione Europea si stima una crescita dell'1,7% del PIL in più, e che ritiene Prometeia che sia opportuno anche chiedere il MES nel giorno in cui, tra l'altro, poi lo dirò, abbiamo anche i dati per quello che riguarda il sostegno Sure. Anzi, li dico subito, perché è arrivato poco fa il via libera del Consiglio europeo al sostegno finanziario, che vale 87 miliardi e mezzo per i 16 stati membri. Sure è una delle quattro gambe del tavolo europeo, lo abbiamo ricordato spesso. Una si chiama, diciamo, Sure, e quindi tutti i soldi a sostegno delle politiche antidisoccupazione. All'Italia andranno 27 miliardi e mezzo di euro, e questo per finanziare il drastico aumento, si legge, della spesa pubblica a causa del ricorso a regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo o misure analoghe anche per i lavoratori autonomi. In sostanza, noi lo useremo in primis per la cassa integrazione. Su questo ci sono dei dati, perché alcune categorie lamentano un ritardo ancora inaccettabile sull'erogazione della cassa integrazione di maggio. Dicevo, le quattro gambe sono: una è il Sure, l'altra è il MES. Quindi il Sure serve per le politiche antidisoccupazione, cassa integrazione, ma non solo. Il MES dovrebbe servire per le politiche anti-Covid, intese come appunto non le infrastrutture degli ospedali, ma tutte quelle che sono le spese per misure di protezione, e comunque le spese che vanno anche dentro il MES, andrebbero anche le spese sostenute per le scuole, quanto a, per esempio, banchi che ancora non stanno arrivando in molti casi, e tutto ciò che è servito, sanificazione, tutto ciò che è servito a mettere in sicurezza le scuole. Poi c'è la BEI, e poi c'è la Banca Europea degli Investimenti, e poi c'è il Recovery Fund. In tutto questo, diciamo, le quattro gambe. Poi possiamo immaginare anche che il tavolo vero e proprio sia quello della Banca Centrale Europea, che sta continuando a comprare titoli di Stato, però in questo caso è la Banca Centrale, le quattro gambe sono le iniziative di carattere europeo. Dicevo, per quello che riguarda le notizie, parleremo di Prometeo, parleremo anche del cosiddetto cashless. A me non piacciono gli inglesismi, sostanzialmente i pagamenti con carta e non con contanti, perché il governo sta studiando anche un concorso a premi, oltre che un vantaggio di circa fino a 300 euro per chi userà le carte dal banco, ma le altre carte di pagamento al posto dei contanti. Cerchiamo di capire come si calcolerà anche non solo questo premio da 3.000 euro, ma anche, diciamo, il bonus, diciamo così, da 300 euro. Per cui, perché diciamo 300 euro? Perché tu puoi ottenere fino a 300 euro di rimborso, perché puoi ottenere il 10% delle spese sostenute per un ammontare massimo di 3.000 euro. Quindi questo è il cashback vero e proprio, e cioè che su fino a un massimo di 3.000 euro ti vengono ritornati 300 euro, il 10%. Però solo se si effettua un numero minimo di 50 transazioni ogni 6 mesi, quindi sostanzialmente una cifra abbastanza accettabile se uno decide di pagare sempre con banco, o molto spesso con bancomat o carta di credito. Poi c'è appunto l'ipotesi del premio da 3.000 euro per le prime 100.000 persone che avranno effettuato il maggior numero di transazioni con carte e altri strumenti di pagamento, vedremo. E poi invece il turismo, perché noi continuiamo, ci siamo occupati l'altro ieri del mondo dell'autotrasporto, continuiamo ad andare a monitorare i vari settori produttivi, abbiamo fatto il tessile e l'abbigliamento 3 giorni fa, o meglio la parte, diciamo, moda casual 3 giorni fa con Stefano Beraldo, amministratore delegato di OVS. La settimana scorsa abbiamo avuto invece tutta la filiera del tessile con il rappresentante appunto dell'intera catena del tessile italiano, e oggi sarà la volta, invece torneremo sul turismo. Perché? Perché oggi è stato presentato dal ministro Franceschini il Fondo Nazionale del Turismo, con cui Cassa Depositi e Prestiti va a intervenire. Saranno mobilitati fino a 2 miliardi a valere sulle risorse di Cassa Depositi e Prestiti, per un totale di 750 milioni, e su ulteriori fondi di investitori terzi. Il Ministero dei Beni Culturali, quindi CDP, partecipa per 750 milioni, e il Ministero dei Beni Culturali mette altri 150 milioni. Il fondo si propone di acquistare e modernare le strutture alberghiere, proponendo la separazione tra proprietà immobiliare e gestione alberghiera. Faccio notare che altre associazioni hanno proposto ai vertici di Cassa Depositi e Prestiti, anche del Ministero, la creazione di un mini bond per i tour operator, per gli hotel, per le terme, di medie dimensioni, con scadenza a 25 anni, sostanzialmente una mini obbligazione con una scadenza a 25 anni, quindi garantita, se ho ben capito, parleremo dalla CDP, per dare respiro. Quindi è chiaro che è un prestito anche questo, però se ha 25 anni forse è un prestito, diciamo, che ti permette di respirare. Noi tutti immaginiamo, insomma, che questa situazione non vada avanti ancora tanto, non so dirvi quanto, ovviamente, ma insomma, 25 anni mi sembra un tempo ragionevole. Per quello che riguarda, qualcuno mi sta scrivendo: guardi che si dimentica di dire che sono prestiti e quindi debiti che poi dovremmo restituire. Sì, quasi tutti, non gli 81 miliardi, fino a 81 miliardi che sono invece trasferimenti a fondo perduto dell'Unione Europea. L'altra parte, i 111, se parliamo del recovery fund, sì, sarebbero prestiti, anche sure sono prestiti. Il problema è capire se, siccome sono prestiti che tu puoi utilizzare, anzi puoi già mettere per i soldi che hai già speso, è ovvio che prima o poi andranno restituiti, ma in questo momento la priorità è traghettare il paese e farlo tornare ai livelli pre-Covid. Voglio dire, ieri abbiamo dato la notizia che la Germania, che era l'alfiere del Schwarz-Null, dello zero nero, del deficit a zero, farà 94 miliardi di deficit per incentivare l'economia. Se perfino i tedeschi rinunciano al mantra dello zero deficit, non mi sembra che in questo momento il problema italiano sia la restituzione. Poi è chiaro che dovrà restituirli, ma in questo momento è come parlare con un commerciante, un artigiano. Se tu lo fai respirare, gli dai dei prestiti a lunghissima scadenza, questo riesce a vivere. E poi ci auguriamo che appena sarà trovato il vaccino oppure delle cure molto efficaci, e quindi terminerà anche il rischio pandemico, lui, l'economia tornerà a girare con le previsioni che vediamo, e lui sarà anche in grado fra un anno e mezzo di poter tornare ai livelli pre-Covid, e quindi di iniziare fra 2 o 3 anni a ripagare. Questo è l'obiettivo. È ovvio che nessuno ti regala niente, però l'importante è che qualcuno ti dia dei prestiti. Di questo parleremo, dicevo, nel corso del programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo però anche sui mercati finanziari. Come prima notizia delle notizie in breve, dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Devo dire che le borse oggi, soprattutto, oddio, mica tanto soprattutto, sono tutte negative per vari motivi. Ancora l'intensificarsi dei contagi, il rischio di nuovi lockdown. Però devo dire che il Dow Jones adesso è in rialzo dello 0,4, Londra è invariata, Parigi fa meno 0,90, Francoforte meno 1,20, Milano meno 1. E ancora per quello che riguarda i titoli, segnalo, insomma, sono praticamente quasi tutti negativi, nello specifico Bipper meno 4,70, Saipem meno 3,5, Pirelli meno 3, Campari meno 2,80 come Atlantia, Azimut meno 2,60 come Mediobanca, ed Estima Electronics, Telecom meno 2,30 come Unicredit e Banca Generali, Eni meno 1,90. Tenaris meno 1,80, Banca Mediolanum meno 2,30. Di positivo c'è Banco BPM più 2,80, Diasorin più 1,70, Terna più 1,30, Snam più 0,90 e lo 0,80 lo guadagna Leonardo, ex Finmeccanica. Rapidamente le altre notizie. I beni durevoli nei mesi di agosto negli Stati Uniti sono cresciuti meno delle attese, più 0,4%, e i nuovi sostanzialmente soprattutto grazie agli ordini non nel settore della difesa, mentre Goldman Sachs oggi ha detto, pur tenendo conto che il 2020 sarà un anno horribilis, è positiva sul settore del lusso, che a noi interessa in particolar modo. Le vendite dovrebbero crescere del 15% nel 2021. Per quello che riguarda il modo in cui i regolamenti europei vanno a valutare le sofferenze bancarie, oggi è preoccupato, si è detto preoccupato anche il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, che ha detto che bisogna fare un'azione preventiva per frenare l'aumento delle sofferenze, e perché sennò a seconda della severità di diversi scenari la qualità degli asset bancari, di qui la loro capacità di prestito, potrebbe potenzialmente subire un duro colpo. Occorre gestire una strategia europea complessiva per appunto per gestire i crediti in sofferenza. Anche se Dombrovskis ha ammesso che non vi è stato ancora un aumento significativo dei non performing loans, delle sofferenze bancarie, ma è probabile che sia solo questione di tempo. Intanto la Banca Centrale Europea dice che è altamente probabile che alla fine verrà utilizzata tutta la dotazione del PIP. Il PIP è lo strumento con cui la BCE acquista titoli di Stato e mantiene bassi tassi di interesse e mette liquidità nel sistema, perché la dotazione complessiva è di 1.350 miliardi di euro, e la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha detto che probabilmente è altamente probabile che verrà utilizzata l'intera dotazione. La Restiamo in Europa perché la Commissione Europea ha deciso di presentare ricorso davanti alla Corte di Giustizia contro la sentenza del Tribunale del luglio 2020 sul caso aiuti di Stato a Apple in Irlanda, cioè l'accusa dell'Unione Europea che l'Irlanda doveva far pagare a Apple le tasse che non aveva fatto pagare con l'accusa di aiuti di Stato e non poteva rinunciarvi. Perché sennò diventano aiuti di Stato, se io non ti faccio pagare una cosa che mi devi è di fatto un aiuto di Stato. La Commissione aveva ordinato al governo irlandese di esigere 13 miliardi di tasse più gli interessi che Apple avrebbe dovuto pagare fra il 2003 e il 2014, a dimostrazione di quanto poi le diverse tassazioni facciano concorrenza sleale dentro l'Europa. Sappiamo come funziona per i colossi del web, che dicono che tutta la fatturazione viene svolta in Irlanda, laddove la tassazione è più agevole. E ha fatto ricorso a Bruxelles, dicevo, dopo che l'antitrust aveva annullato dopo che il tribunale aveva annullato la sua decisione, dicendo attenzione, c'era stato un errore dal punto di vista procedurale. Vedremo come andrà a finire. Coronavirus, allora non tornerò sicuramente sulle polemiche di ieri. Boris Johnson ha risposto benissimo, il nostro Presidente della Repubblica. Faccio solo notare che mi era sfuggito, ma tra i medici e gli infermieri che hanno curato Boris Johnson c'era, oltre che molto personale non britannico, neanche europeo, c'era anche un medico di Catanzaro, a dimostrazione che la sanità britannica senza una forte dose massiccia di infermieri e medici europei, ma non solo, anche extraeuropei, non si reggerebbe in piedi. Dovrebbe ricordarselo Boris Johnson, ma voglio dire, per carità, è chiaramente in un periodo confuso, molto confuso, così come non voglio fare nessuna polemica con quello che gli articoli, insomma, ho ben visto dalle Figaro che ha detto sarà un fallimento la Fashion Week a Milano, cronaca di un fiasco annunciato. Oggi, insomma, va tutta la nostra solidarietà alla Francia per l'attacco a Parigi con 4 feriti vicino all'ex sede di Charlie Hebdo. Quindi, insomma, nessuna polemica su questo. Poi, voglio dire, non ho capito se sia rosicamento francese, non sarebbe la prima volta, ma insomma, oggi la solidarietà va a quello che è successo a Parigi. Nel frattempo segnalo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, su cui non ho cambiato idea, non è che se adesso, diciamo, elogia l'Italia mi sta più simpatica, comunque riconosce che l'Italia ha reagito con forza, elogia anche direttamente il ministro Speranza, il primo paese occidentale ad essere colpito pesantemente, hanno reagito con forza e hanno invertito la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure basate sulla scienza. Ecco, forse l'unica cosa interessante è questa. In Israele è scattato il lockdown rinforzato, visto che vi sono stati 7.527 nuovi contagi. Madrid ha esteso il lockdown a 1 milione di persone e quindi nuove restrizioni dopo quelle che abbiamo ricordato ieri in Francia e anche in Gran Bretagna. Il carnevale di Rio è stato rinviato. Il premier francese Jean Castex non ha escluso la possibilità di un nuovo lockdown se non si riuscisse a invertire la curva e appunto che sta colpendo pesantemente Parigi e Marsiglia per quello che riguarda la Francia. E ha confermato comunque, nonostante la rivolta del sindaco di Marsiglia e anche di Saint-Provence, ha confermato le misure che portano alla chiusura di ristoranti e bar per 15 giorni a Marsiglia. Marsiglia è la seconda città per abitanti della Francia. Veniamo all'Italia. A settembre è risalita la fiducia dei consumatori e anche delle imprese, da 101 a 103 punti quella dei consumatori e da 81 a 91 punti quella delle imprese. Sono tutti gli indicatori, ma soprattutto il clima economico e il clima futuro registrano l'incremento più marcato, ma anche l'indicatore sul clima personale. Guardando le imprese, nel settore manifatturiero è salito da 87 a 92, nelle costruzioni è aumentato da 102 a 138 e soprattutto nel settore servizi sale da 75 a 88 la fiducia delle imprese, più contenuta la crescita nel commercio al dettaglio da 94 a 97 punti. E di questo poi parleremo fra un attimo. nell'analizzare appunto le previsioni di Prometeia. Ancora qualche notizia per quello che riguarda il mondo fieristico, che è un altro mondo in ginocchio, non c'è bisogno di una grande analisi per arrivare a questa considerazione. Faccio notare che oggi Verona Fiere ha deciso un aumento di capitale e il ritorno alle manifestazioni in presenza. Il presidente Maurizio Danese ha ricordato che le perdite per il settore sono di 1 miliardo di euro, che diventano 2-3 miliardi considerato l'indotto che genera il settore fieristico. Pensate solo agli alberghi, ai ristoranti, ai servizi vari, dai taxi all'autonoleggio e quant'altro. Vi sono le manifestazioni in presenza, abbiamo cominciato con Wine to Asia in Cina, proseguiremo adesso con Wine to Wine, Marmomac e Fiera Cavalli, spalmata su 2 weekend. Continua invece la polemica sulla modalità di riapertura degli stadi. Addirittura, insomma, il Ministero della Salute, come ha specificato oggi la sottosegretaria della Salute Sandra Zampa, 24 mattina con il nostro Simone Spezia, 24 mattino, ha detto: noi del Ministero della Salute siamo contrari to cure a una riapertura degli stadi. Noi siamo contrari. Il Ministro ha ieri ribadito che prima ci sono le scuole, ci sono altre priorità e poi eventualmente ci occuperemo degli stadi. Prima occorre vedere quale sarà l'impatto della riapertura delle scuole, quindi quanto si alzerà eventualmente l'indice di riproduzione virale, e solo successivamente si potrà aprire una riflessione su aperture che comportano grandi assembramenti inevitabilmente, come invece sono gli stadi. Nel caso Zampa, le regioni o i comuni, le singole squadre decidano di procedere in questa direzione, voi potete agire, per così dire, d'imperio? Cioè c'è qualcosa che può fare il Ministero, che può fare il governo per fermare la possibilità di riaprire gli stadi? In questo momento, come lei sa, le regioni possono decidere. Guardi, è lo stesso, identica situazione che si è venuta a creare con la riapertura delle discoteche. Le regioni possono decidere, poi ad un certo punto però di fronte al disastro che stava venendo avanti, il ministro ha fatto un'ordinanza che ha chiuso, imposto la chiusura di tutte le discoteche. E sareste caso, disposti a farlo eventualmente? Fare. Questo non lo so, lo deciderà il ministro. Dunque, allora guardate, io capisco, figuratevi, sono un tifoso di calcio, capisco anche la bellezza, la gioia nel portare tuo figlio, l'ho fatto molte volte allo stadio, e guardare la partita, anche a me dispiace vedere le partite con questo silenzio assordante, per carità, però parliamoci chiaro, non è una priorità in questo momento, anche il 25%, bisogna vedere bisogna capire come riesce a scaglionare un ingresso in uno stadio e fare in modo che le persone non escano tutte assieme, cosa che è normale quando esci da uno stadio. Quindi capisco tutto, però memore anche di addirittura la Spezia, abbiamo visto che ci sono stati un aumento di contagi per i festeggiamenti perché lo Spezia veniva in A, cioè attenzione, restiamo sulle scuole che già presentano qualche criticità, insomma. E poi vedremo l'evoluzione, non mi sembra una priorità, capisco anche le esigenze delle società calcistiche, però portare 20.000 o 10.000 persone in uno stadio che magari che ha una capienza di 50.000, il 25%, insomma, sono molto molto scettico e non mi sembra comunque una priorità, anche perché se poi scoppiano focolai nuovi, no, si va ai lockdown, e quindi meglio pensarci bene. Ancora... E chi mi dice: guardi che lei quando parla dei fondi del recovery si dimentica di fare la differenza, sì certo, con quello che noi versiamo l'Europa, quindi diminuisce la quantità complessiva, però ripeto, il problema dei prestiti è la loro durata e il tasso di interesse, se sono vantaggiosi intanto permettono di respirare. Va bene, qualcuno mi dice che siamo al terrorismo psicologico, basta terrorismo sanitario, Basta col Covid, focolai sono balle, va bene, guarda. Ma perché non si fa un giro in un ospedale e parla con gli infermieri? Non parli con me, se ha tutto sto tempo, prenda, vada in un ospedale, faccia anche volontariato e mi racconti com'è, parli con chi è stato ricoverato per Covid, che cosa vuol dire stare in respirazione assistita. Dopodiché nessuno sta facendo terrorismo, stiamo dicendo che la situazione in Italia è sicuramente più sotto controllo che in altri paesi, guardiamo con attenzione i casi clinici, i ricoveri in terapia intensiva, i ricoveri in generale, per cui nessuno sta facendo terrorismo. Poi voglio dire, no, ma vada a informarsi anche sulla terra piatta a questo punto. 349-238-6666 per sms e whatsapp, meteo, e poi partiamo con una cosa inaccettabile che denunciano gli artigiani, i piccoli imprenditori, oltre 400.000 cassa integrazione in ritardo, smentisce tutto Tridico, però insomma faremo ascoltare anche la voce degli artigiani. Andiamo sul meteo. Focus Economia. Dunque, andiamo a parlare di cassa integrazione. Sì, guardate, non posso continuare su questa cosa del Covid. Diamo sempre nei GR 24, non in questo programma che non è un programma, come mi scrive un ascoltatore medico, anche i dati sui ricoveri, le terapie intensive, le terapie normali. E ho detto prima che, insomma, chiaramente la situazione è ancora sotto controllo, non sta facendo nessuno allarmismo. Poi andate a vedere, se avete la pazienza di leggere i giornali, che cosa succede a Marsiglia, a Parigi e a Madrid nelle terapie intensive, dove anche lì non si è ai livelli di aprile, ma c'è una tensione. I numeri, come dicevo ieri, hanno la testa dura, punto e basta. Nessuno sta facendo allarmismo, nessuno. Allora, invece invito il presidente Tridico, con cui ho già polemizzato a lungo e non ho intenzione di tornare alla polemica con Tridico, a magari contattare direttamente, invece che fare comunicati, contattare direttamente per esempio l'Unione degli Artigiani Italiani, perché Tridico oggi pomeriggio ha smentito che vi sia un ritardo importante nell'erogazione della cassa integrazione. Ha detto l'accesso ai servizi digitali con l'identità unica SPID avrà un impatto anche sull'erogazione della cassa integrazione, velocizzando i tempi, visto che oggi molte casse integrazioni non pagate riguardano errori come l'IBAN e il codice fiscale. Abbiamo pagato 11 milioni di cassa integrazione negli ultimi 5 mesi, sono in attesa di essere pagati solo 30.000 lavoratori, è un flusso continuo, 30.000 lavoratori su 11 milioni di prestazioni è una percentuale piccola che continuerà ad esistere perché è un flusso continuo, ma con la verifica collegata tra IBAN e SPID questi errori potrebbero essere evitati. Non ho motivo per mettere in dubbio Tridico, però attenzione, noi abbiamo raggiunto, cosa che può fare tranquillamente anche il presidente dell'INPS, per esempio Michele Francesco Abbale, che è dell'Unione Artigiani Italiani, lo ha raggiunto la nostra Cristina Carpinelli, e lui dice, insomma, a noi risulta quasi 400.000 tra artigiani e piccoli imprenditori che stanno ancora aspettando la cassa integrazione. Le pratiche sono state elaborate subito, quindi le regioni hanno risposto molto bene. Purtroppo, siccome poi i controlli erano demandati all'INPS, l'INPS comunque ha avuto dei forti rallentamenti, secondo me purtroppo per mole di lavoro enorme. Lei consideri che c'è stato un incremento del 988% delle casse integrazione presentate rispetto all'anno 2019, quindi non c'era neanche il personale dell'INPS che purtroppo lavorava queste pratiche. E quindi noi ad oggi fisicamente non sappiamo di tutte le pratiche presentate, di fatto quante non sono state pagate, perché lavorate tutte, quindi sono state accettate tutte, ovviamente quelle con riserva poi che avevano dei problemi. Pare che ci siano sui 400.000 artigiani che non ricevono. Ci sono 400.000 artigiani e quindi lavoratori che non hanno ancora ricevuto i pagamenti, e purtroppo questo è un problema. La situazione è drammatica anche perché si sono paventate due ipotesi: l'ipotesi in cui il datore di lavoro potesse anticipare le casse integrazione, però lì dove è stato possibile è stato fatto, ma per un primo periodo, perché poi ovviamente lavorando meno gli imprenditori hanno potuto anticipare in parte, ma adesso non è più possibile questa cosa, perché ovviamente finiscono le risorse anche per gli imprenditori, che devono pensare comunque a mantenere in vita l'azienda per poi proseguire quando tutto questo sarà finito. Vede, Presidente Tridico, se lei parlasse con gli artigiani capirebbe anche questo, ammesso che non lo sappia, cioè che un conto è processare una domanda, un conto è erogare il finanziamento effettivamente, che il numero che lei cita dovrebbe essere, per maggior trasparenza, dovrebbe ricordare quante di questi 11 milioni sono state anticipate dai datori di lavoro, cosa che non risulta essere nella stragrande maggioranza dei casi, e che però poi smettono, perché tu puoi anticipare, vai in credito d'imposta. Dopodiché, se tu non fatturi o fatturi poco, te ne fai poco del credito d'imposta, è un credito su un'imposta che sarà molto più bassa, quindi attenzione. E magari può anche raggiungere casi locali, perché la nostra Cristina Carpinelli ha raggiunto il segretario regionale di Confartigianato Calabria, per non stare sempre al nord, che si chiama Silvano Barbalace, e sentiamo cosa le ha raccontato. Allora, i dati che abbiamo noi, gli ultimi dati relativamente all'FSBA, quindi al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, danno 8.000 lavoratori che ancora attendono l'assegno per il mese di maggio, quindi l'assegno coronavirus per il mese di maggio. Noi abbiamo stimato circa in 3 milioni e mezzo di euro per chiudere le necessità, insomma, per chiudere il pagamento ovviamente di queste prestazioni per il mese di maggio e di giugno, quindi la chiusura. Queste persone che non ricevono soldi di fatto da maggio, in che situazione sono adesso? Beh, diciamo che sono ovviamente in difficoltà, perché comunque, ripeto, ci sono anche tanti lavoratori che non hanno potuto prendere la prestazione per i mesi precedenti, perché c'è stato un errore, un po' di confusione da parte dei consulenti nella gestione delle richieste, perché erroneamente è stata inoltrata la richiesta all'INPS o è stata fatta con la cassa integrazione in deroga, quindi insomma la situazione non è sicuramente semplice, però se guardiamo ovviamente lato imprese, diciamo che il mercato è in ripresa. Noi abbiamo una grande preoccupazione però per questo inverno, perché comunque se fino ad oggi le imprese hanno potuto contare su una serie di sussidi e di aiuti, di bonus che sono arrivati da parte dello Stato, da parte anche dell'ente regione, questi bonus stanno finendo, quindi adesso vedremo quest'inverno come sarà quest'autunno. Cioè, quello che si chiede a Tridico e all'INPS è di fare un monitoraggio molto dettagliato, non di dare cifre e numeri aggregati che poi andrebbero scomposti, quante di queste sono state anticipate, quante sono state erogate direttamente, quante sono solo lavorate ma non ancora erogate. Questo stiamo chiedendo. Comunque, adesso parliamo delle previsioni di Prometeia. Una cosa la devo dire a chi mi scrive: guardate che la Spagna, la Gran Bretagna e la Francia sono più mobili nel lockdown perché non vogliono creare danni all'economia. Qui bisogna capirsi però sui numeri, vale anche per il modello svedese che qualche così ignorante cita a sproposito. La Svezia ha avuto un crollo e un calo del PIL simile agli altri, ma soprattutto se guardate le stime del secondo trimestre, il PIL francese, il PIL britannico e il britannico è il peggiore in assoluto, meno 20% sull'anno. Il PIL francese fa un punto in meno rispetto anche al nostro, e il PIL spagnolo, se non ricordo male, 3 o 4 punti peggiore. Quindi così il tendenziale anno su anno. Quindi non c'è nessuna evidenza empirica che dei lockdown più morbidi, che tra l'altro non sono neanche serviti così tanto vista la recrudescenza in Francia, in Spagna e in Gran Bretagna, abbiano migliorato l'andamento dell'economia, perché il dato sul PIL è netto. Quello possiamo discutere quanto volete, si prende il secondo trimestre dell'anno, lo si confronta col secondo trimestre del 2019, andate a vedere, i dati sono pubblicati da Eurostat, e vedete che l'Italia, dopo la Germania, è uno dei paesi grossi, è il paese grosso che cala di meno, con un calo drammatico. A proposito di cali, oggi è uscita la stima di Prometeia, meno 9,6% quest'anno, e tra l'altro è meno, con un recupero solo nel 2023, perché più 6,2 nel 2022 e più 2,8 nel 2023. Ieri Standard & Poor's aveva aggiornato stimando meno 8,9 per l'Italia quest'anno. Faccio notare che la Spagna è prevista meno 11,3 e la Francia meno 9%, a dimostrazione di quanto stavo dicendo. E allora vorrei parlarne con il segretario generale di Prometeia, nonché docente di economia all'Università di Padova, Lorenzo Forni. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, da dove arriva questa stima che è peggiore sia di quella del governo sia di quella di Standard & Poor's, e soprattutto visto che voi dite attenzione, viste le criticità italiane, le storiche difficoltà del nostro paese a scegliere e portare a termine i progetti di investimento, stimiamo che solo il 70% dei fondi del recovery saranno utilizzati. Beh, allora, la ripresa ovviamente c'è ed è forte, abbiamo visto anche la produzione industriale di luglio che ha ripreso più del previsto, però la fine dell'anno ovviamente risente della situazione complessiva. Tra l'altro noi abbiamo rivisto al rialzo, quindi migliorativa, la stima per l'anno per l'Italia, quindi diciamo la tendenza è positiva. Sul Recovery Fund e sui fondi europei innanzitutto saranno disponibili probabilmente solo dalla metà dell'anno prossimo, del 2021. E quando uno va a fare un po' i conti si rende conto che diciamo i finanziamenti sono molto ricchi, molti andranno utilizzati per fare degli investimenti o contributi agli investimenti, ma la macchina amministrativa italiana non è abituata a gestire questi livelli, cioè in alcuni casi si parla di potenzialmente raddoppiare gli investimenti, il contributo agli investimenti pubblici italiani in alcuni momenti dell'orizzonte previsivo. Quindi noi ci siamo chiesti se questo poi è effettivamente fattibile, passare dal 3% del PIL al 6% del PIL di investimenti e contributo agli investimenti. E quindi attraverso alcuni ragionamenti abbiamo ritenuto che fare i programmi da presentare alla Commissione europea, approvarli, stato di avanzamenti, eccetera, eccetera, alla fine non si riusciranno a utilizzare tutti. Ovviamente. Ecco, ovviamente no, voi avete preso lo stato dell'arte, dite, beh, se questo è lo stato dell'arte e con l'esperienza degli anni scorsi arriveremo al 70%. Domanda, quindi servirebbe uno scatto da questo punto di vista? Io personalmente ritengo che debba essere centralizzata, levata alle regioni, ma non perché non mi fidi di alcune regioni, ma perché la classifica che famosa del venerdì che ho sospeso aveva sempre alcune o molte regioni nella loro incapacità di fare dei piani seri per spendere i soldi europei. Figuriamoci adesso. Secondo me andrebbe centralizzato con un commissario unico. Io ho fatto il nome di Cottarelli solo perché era alla Spending Review, non ho nessun rapporto né affettivo né di parentela né professionale né di nulla con Carlo Cottarelli, lo stimo e basta. Lei ritiene che per cambiare passo si debba creare, diciamo, un controllo e non lasciare tutto alle regioni, e quindi poi anche un controllo sull'avanzamento dei lavori? Prego. Ma al momento la cabina di regia è centralizzata, è il Comitato Interministeriale degli Affari Europei, quindi diciamo, il ministro Amendola in primis. Esatto, quindi diciamo la cabina di regia è già centralizzata e questo è positivo. Il problema è che poi però la macchina opera in maniera decentralizzata, giustamente, cioè la maggior parte degli investimenti in Italia vengono fatti dagli enti locali, dalle regioni, dai comuni, quindi la cinghia di trasmissione deve funzionare. E lì voglio dire, è chiaro che bisogna fare uno scatto, un salto in avanti, però bisogna essere anche realistici. Quanto si può fare con la normativa, con i tempi burocratici che abbiamo, questo scatto in avanti? Come diceva lei, al momento noi ci stiamo affidando un po' all'esperienza storica. Ci fosse che non è granché positivo. Esatto, che ovviamente lo scatto in avanti dovrebbe prevedere qualche forma straordinaria di gestione, forse, no? Straordinaria anche di gestione, quindi anche un cambiamento normativo. Senta, Forni, dopo il GR24 avrei un'ultima domanda per lei, perché me la stanno stimolando anche gli ascoltatori. Ho fatto l'esempio di Francia, Gran Bretagna e Spagna, dove non vi è nessuna evidenza macroeconomica che dei lockdown più morbidi, sicuramente in Gran Bretagna e in Francia, rispetto ai nostri, abbiano portato a un minor calo del PIL. Vorrei un suo commento su questo, cioè noi non vediamo nessuno quello che si chiamerebbe correlazione tra lockdown più morbidi e un minore calo del PIL. Alcuni ascoltatori mi dicono: guardate, è anche perché noi abbiamo avuto ancora il blocco dei licenziamenti, altri dicono perché l'Italia non si tiene conto del nero, ho capito, ma il nero è difficile anche conteggiarlo nel PIL. Vorrei capire se invece voi avete un'opinione diversa, glielo chiedo sia come segretario di Prometeia che come docente di economia, dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Replica Sistemi è il partner software di centinaia di aziende in tutti i settori, come Sammontana, che da Empoli ha conquistato il mondo dei gelati, dell'acquasanteria e non solo. Sentiamo uno dei titolari, amministratore delegato Leonardo Bagnoli. Noi siamo un'azienda che ha come concorrenti le multinazionali, le più grandi multinazionali estere nel campo alimentare. Replica Sistemi ci aiuta a competere nei nostri mercati e ci ha permesso di fare dei sviluppi importanti in ogni settore aziendale. Replica Sistemi, replica successi, anche nel tuo settore. Zucchetti Group. I've got Repower! L'energia di Repower si fa sentire. Repower è efficienza energetica e mobilità elettrica per il tuo lavoro, elettricità e gas inclusi. Scegli Repower, il personal trainer dell'energia per la tua azienda. Repower. Colesterolo? Prova Colesterolact. Colesterolact contribuisce a mantenere livelli normali di colesterolo nel sangue. Colesterolact, 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Acquistalo in farmacia e parafarmacia. Stimoli frequenti anche notturni? Cara prostata, quanto mi costi? Prostatact compresse di Serenoa Repens contribuisce a favorire la funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostatact 60 compresse a €19,90 in farmacia e parafarmacia. Prostatact, cara prostata, quanto mi costavi? Come azione, B come BTP, C come cetola. In fondo il risparmio è facile, dai. Sì, però poi bisogna sapere S come switch, L come lockdown, E come ESG, anzi ESG. Secondo me è meglio fare un ripasso, specialmente di questi tempi. Allora, vieni a ripetizione con me tutti i martedì su Radio 24 a 2 di Denari. C'è l'alfabeto del risparmio con il Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria. Aspetta che me lo segno. Martedì dalle 11 alle 12 su Radio 24 e se poi quel giorno lì c'ho judo? C'è il podcast e se vai sul sito ci saranno anche dei materiali extra. L'alfabeto del risparmio, le scelte per ripartire. Tutti i martedì all'interno di 2 di Denari, in collaborazione con il Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria. Tutte le info su radio24.it e su www.quellocheconta.gov.it. Focus Economia. Minuti prima di avere la risposta alla domanda che ho fatto al professor Forni, due notizie appena battute. La prima, eccolo qua, il vicepresidente della Commissione Europea Frans Timmermans ha detto oggi che non capisce certe reazioni dell'Italia sul MES. Non ho mai capito, ovviamente sta l'Italia a decidere, ma non ho mai capito certe reazioni allergiche nella politica italiana al solo parlare del MES, che è concepito solo per la sanità e senza controindicazioni. Vorrei che si facesse una scelta razionale sulla base di questa domanda. Il MES aiuta ad alleviare la pressione sui medici e gli infermieri e può aiutare il settore sanitario a riprendersi più velocemente a investire? Se sì, non vedo perché non usarlo. L'altra notizia invece di carattere locale, il 6 novembre vi sarà uno sciopero nazionale di tutti i taxi nelle piazze italiane e con una manifestazione per la profonda crisi che sta vivendo il settore a causa dei duri colpi inferti dalla pandemia in atto. Continua il comunicato delle sigle sindacali. In questo drammatico contesto, mentre si sono trovate varie forme di ristoro e risorse per aiutare altre tipologie di comparti, agli operatori del settore taxi che svolgono un servizio pubblico sono stati forniti sostegni impalpabili. Allora, le avevo chiesto un'ultima cosa, professor Forni, come docente di economia ma anche come segretario generale di Prometeia, perché o meglio, risulta anche a voi che non vi sia una correlazione tra durezza del lockdown e andamento del PIL, e visto che alcuni ascoltatori obiettavano ma guardate che da noi c'è il nero, guardate che noi abbiamo ancora i licenziamenti bloccati. Sì, ci risulta, a mio avviso è un, diciamo, è la strategia italiana che ha pagato, cioè lockdown più stretti durante la fase primaverile hanno permesso non dico sopprimere, ma controllare meglio il virus e quindi poi avere meno lockdown nella fase successiva, meno restrizioni nella fase successiva. Se lei guarda i dati appunto sulle restrizioni, ci sono vari indicatori, eccetera, si vede chiaramente. Altri paesi europei hanno avuto dei lockdown più morbidi nei mesi primaverili e adesso si trovano con più casi, con maggiori difficoltà e che quindi negli United Kingdom, in Inghilterra hanno dovuto rimettere, nel Regno Unito hanno dovuto rimettere alcuni introdurre alcune misure parziali e in Spagna anche e noi beneficiamo del fatto, a mio avviso, che abbiamo seguito una strategia un po' più dura, quindi in realtà non c'è il cosiddetto trade-off tra il lockdown, c'è lo scambio, nel senso più basso è l'intensità del lockdown, meno cala il PIL dell'economia e viceversa. Non sono mai riuscito a trovare una correlazione e lei ce lo sta confermando. Grazie anche appunto al segretario generale di Prometeia Lorenzo Forni, e noi restiamo invece sui settori economici. Da un lato per il piano cashless del governo, cioè che cosa, chi usa le carte, e poi invece il settore turismo. Partiamo appunto dagli incentivi all'usare le carte, addirittura con l'ipotesi di un concorso a premi. Dunque, nel piano era già previsto il famoso cashback, e cioè la restituzione del 10% delle spese sostenute con rate semestrali per chi utilizza la carta, e se ho ben visto fino a massimo 3.000 euro, quindi al massimo puoi avere restituiti 300 euro, devi effettuare un numero minimo di 50 transazioni ogni 6 mesi, adesso vedremo sulla parte invece della tecnicalità, però è spuntato anche un concorso a premi. Allora, Giovanni Parente del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dunque, intanto come funziona il cashback, che la cosa più certa che abbiamo di questo piano per stimolare l'utilizzo delle carte, e poi invece cos'è il concorso a premi? Esatto, il cashback è di fatto una sorta di rimborso di Stato che verrà appunto erogato, probabilmente seguirà la stessa procedura che è stata seguita attraverso per il bonus vacanze, quindi attraverso, e questo non mi fa stare tranquillo perché era molto complicato il meccanismo del bonus vacanze e quindi bisognerà prendere confidenza con questa app che si chiama IO, si chiama già IO, che attraverso che è collegata anche a PagoPA e si accede attraverso lo SPID essenzialmente, e abbiamo detto tutti gli anglicismi che avevamo a disposizione, e per registrare le carte di credito, il bancomat con cui si effettuano operazioni. Il cashback prevede essenzialmente una restituzione del 10% nell'arco di un anno su un massimo di 3.000 euro di spese effettuate, vengono suddivisi in semestre, quindi sostanzialmente si può avere fino a 150 euro in un semestre e altri 150 euro in un successivo semestre. Questa è una misura che è stata rifinanziata nel decreto agosto, già prevista la legge di bilancio dell'anno scorso, poi per l'emergenza Covid è stata un po' posticipato il debutto, e la novità delle ultime ore, sempre per incentivare il meccanismo di utilizzo delle carte di credito, è una sorta di concorso a premi che in realtà va a premiare chi utilizza di più le prime 100.000 persone che nell'arco di 6 mesi, dal 1 dicembre 2020 fino al termine di maggio 2021, avranno effettuato il maggior numero di transazioni con carte. Ecco, non il valore chiaramente, che sarebbe discriminatorio, ma il numero di transazioni. Esattamente. Quindi sostanzialmente si va a verificare appunto quante transazioni numeriche sono state, quante volte si è pagato con la carta o col banco. Certo. Ma questo è l'intento con cui si attribuirebbe questo premio. Ovviamente sul cashback di cui parlavamo prima viene fissata anche in qualche modo una soglia minima di transazioni, perché altrimenti sì, uno potrebbe fare una sola da 3.000 e sperare del rimborso. invece no, devono essere effettuate 50, almeno 50 transazioni in un semestre per poter poi accedere al famoso rimborso del 10% sulle spese effettuate su un tetto massimo di 30 euro. Sì, non mi sembra una cifra eccessiva, diciamo 50 transazioni in sei mesi, insomma. No, direi che dipende, è chiaro che non devono essere tutte transazioni di grande valore, perché il massimo è 3.000 euro. Domanda al volo, ma devi fare con la stessa carta o basta che sia una carta, cioè bancomat, carta di credito, carta di debito? Puoi registrare le carte che hai, quindi insomma in qualche modo non c'è una discriminazione tra debito e credito. L'altra novità che si sta studiando è sostanzialmente che in un nucleo familiare ognuno potrà registrare la carta di cui è intestatario, le carte di cui è intestatario, quindi insomma questo è quanto sta prendendo forma. Ovviamente ricordiamo, insomma, ci sarà un decreto che dovrà poi codificare esattamente queste regole da seguire. Allora, grazie anche a Giovanni Parente. Adesso andiamo sul traffico e poi l'iniziativa per il settore turismo, dalla richiesta del mini bot al fondo invece nazionale del turismo, che dovranno mobilitare fino a 2 miliardi. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it vi presenta Focus Economia. Allora, veniamo al turismo. Che cosa ha deciso oggi il governo? Ascoltiamo Franceschini. Creazione del fondo turismo da 2 miliardi, fondamentale per quando la crisi sarà finita. Servirà per sostenere le imprese in questa fase, per esempio evitare che alberghi, che torneranno ad avere una redditività molto alta perché sono i luoghi straordinari, ma che in assenza di turismo internazionale non riescono ad affrontare la crisi fino alla fine. Sostenerli in questa fase, evitare che finiscano in mani non italiane o in mani sbagliate, ma è uno strumento che nasce per sostenere il turismo quando la crisi sarà finita, quindi sostenere gli investimenti, indirizzarli, ed è importante che questo avvenga con cifre così importanti del Ministero di Castelpretoresta. Allora, ringrazio per averci raggiunto in collegamento Enrico Netti del Sole 24 Ore. Buonasera Enrico. Buonasera a tutti i radioascoltatori. E grazie anche a Marina Lalli, Presidente di Federturismo Confindustria. Buonasera Presidente. Buonasera a voi. Allora Enrico, rapidamente, che cosa prevede, cosa servirà, diciamo, questo fondo a cui partecipa anche la CDP, se ho ben capito, per 750 milioni, il Ministero metterà 150 milioni, mobilitati fino a 2 miliardi, si propone di acquistare e ammodernare le strutture alberghiere? Corretto. L'obiettivo del fondo sarà di acquisire alberghi che vengono definiti iconici, probabilmente alberghi situati in posti unici lungo la penisola, mi viene in mente Ischia, Taormina, la costiera amalfitana, insomma il top dell'offerta turistica italiana. Verranno poi ristrutturati, rimodernati, adesso al momento non si sa, e poi affidati e gestiti da società specializzate. Cassa Depositi e Prestiti ha già dei rapporti con TH Hotels e Roccofort Hotels, per cui insomma, questi hotel saranno soprattutto, la cosa più importante, posizionati nella fascia top dei 5 stelle, 5 stelle lusso dell'offerta italiana. Un'offerta che soprattutto ha una durata nel tempo svincolata dai canonici mesi estivi, in grado di attirare ospiti da tutto il mondo anche durante quella che potrebbe essere la bassa stagione. Quindi sostanzialmente una separazione tra la proprietà immobiliare e la gestione alberghiera. Esatto, poi in un secondo tempo, insomma non è stato dato un dato preciso al termine, precedenti proprietari potranno rientrare in possesso dell'immobile. Insomma, questo è un aspetto che al momento non è ancora stato spiegato nei dettagli, però stamattina abbiamo appreso che stanno già lavorando su un determinato numero di proprietà di di alberghi iconici di cui il momento non è dato sapere quali. Ecco, tra l'altro nel corso degli ultimi anni la CDP, la Cassa Depositi e Prestiti, ha già acquisito 7 strutture alberghiere per 160 milioni di euro complessivi e il fondo potrà concedere agli attuali proprietari un diritto di riacquisto da esercitare in un arco di tempo congruo appunto rispetto alle stime di ripresa del mercato ricettivo internazionale. Cioè è un aiuto su alberghi che tu definisci iconici, cioè che fanno parte anche del patrimonio alberghiero sicuramente, ma forse non solo alberghiero, di questo paese. Vorrei sentire che cosa ne pensa appunto la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli e poi chiederle invece della proposta che è arrivata anche da altre associazioni dei mini bond, ossia delle mini obbligazioni da dare al settore per permettere di respirare e con un lungo preammortamento e anche una lunga scadenza, in modo da, se ho ben visto la richiesta è a 25 anni, adesso vado a riprenderla, e quindi permettere di respirare anche dal punto di vista economico. Lalli. Sì, allora noi siamo contenti, stamattina ero lì in Cassa Depositi e Prestiti perché intanto significa che c'è una lente di ingrandimento accesa sul settore del turismo, ci si è accorti che il 13% del PIL in grande crisi non può essere lasciato in balia di se stesso. Quindi questo è un primo passo che abbiamo accolto con grande favore, che va verso quelle appunto definite come situazioni di immobili iconici, ed è comunque positivo perché significa quello che rappresenta il turismo fuori, che ben viene immaginato anche dall'estero, non può essere lasciato andare in ora, perché altrimenti tutto il turismo viene inficiato dal fatto che qualche azienda che viene riconosciuta più di altre non sta andando bene. Quindi è un primo passo molto importante. Naturalmente è quello che noi abbiamo chiesto e sul quale c'è stata una porta spalancata per parlarne, è di poter tarare una misura invece più adeguata anche su quelle che sono poi la stragrande maggioranza delle aziende turistiche, che sono un po' diverse da questi numeri di fatturato, da questa tipologia immaginata oggi, quindi calarla un po' nella realtà. Ecco, l'altra ipotesi che chiedono altre associazioni, penso Federterme, Astoi, Confindustria Viaggi, Federalberghi, insomma, hanno proposto ai vertici della Cassa Depositi e Prestiti un mini bond. Dovrebbe servire ai tour operator, agli hotel, alle terme di medie dimensioni, scadenza 25 anni. L'ipotesi che abbiamo letto è quella di un'obbligazione dedicata a chi ha un minimo di dimensioni, e quindi fatturato minimo pari a 5 milioni, questa è un'ipotesi nel 2019, vengono emesse da queste società obbligazioni mini di lungo periodo, per esempio a 25 anni con un tasso all'1% e con un preammortamento di 5 anni, quindi si pagherà, crisi speriamo tutti, ampiamente passata, con appunto l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti o del Medio Credito Centrale come garanzia. Che ne pensa? Sì, allora questa è una delle ipotesi di cui stavamo discutendo con Cassa Depositi e Prestiti. Peraltro Federterme e Astoi sono interne a Federturismo e quindi nel pacchetto vario c'è anche questa del mini fond, che potrebbe essere senz'altro un'ipotesi molto utile, perché si cala in una realtà più diciamo confacente a quello che è il DNA tipico dell'azienda turistica italiana. E ovviamente non è l'unico strumento, ci possono essere anche prestiti di altro genere, factoring, cioè quello che è importante far capire è che anche ciò che il decreto liquidità ha detto, i 6 anni, i 5 anni, per noi non sono sufficienti, perché se noi dobbiamo riammodernare le strutture, rimettere in piedi la cassa che oggi è veramente devastata e fare tutte queste operazioni e magari ricomprarci anche il bene, ovviamente 5 anni, 6 anni sono improponibili. Ecco, mi scusi un'ultima cosa Lalli, però non vedo mai in questo ragionamento, anche da parte vostra, la tentativa di distinguere tra albergo e albergo o tra diciamo struttura ricettiva e struttura ricettiva. Noi sappiamo che per esempio quest'estate vi è stata una differenza enorme tra gli alberghi della Riviera Toscana, Emiliana, Veneta e gli alberghi dei centri storici o anche dei centri urbani, penso a Firenze, Venezia, Roma, Milano, per l'assenza di turisti nei centri storici, mentre onestamente la presenza, soprattutto ad agosto, è stata alta negli alberghi, diciamo, delle località montane o della costa. Non sarebbe il caso di fare anche una differenza? Non so, io immaginavo una volta uno porta il fatturato di 4 mesi rispetto al fatturato dell'anno prima e si va a vedere la perdita, per esempio, superiore al 33%, come è avvenuto per il decreto di maggio, quello insomma che garantiva liquidità a fondo perduto. Sì, questo è vero, solo che questo, diciamo, canto del cigno dell'estate di tutti gli alberghi del mare naturalmente non può tenere in piedi l'albergo per un anno, e quindi quello che è stato incassato a luglio, agosto al mare svanirà per tutto il resto dell'anno, così come i poveri alberghi di città invece hanno grandissimi problemi perché erano abituati a lavorare con gli stranieri, e di stranieri non ne stiamo vedendo neanche uno, ahimè. E quindi ognuno in realtà sta vivendo il suo piccolo dramma, che per adesso è piccolo, ma entro la fine dell'anno diventa insormontabile. No, lo dico perché, a mio avviso, visto che i soldi non ci sono per tutti, forse anche al vostro interno dovreste iniziare a distinguere. È chiaro che nessuno chiuderà l'anno con il segno più nel settore alberghiero, e probabilmente nessuno lo chiuderà con un meno 10. Ma i dati, però lei capisce che tra un meno 25 e un meno 60 c'è una bella differenza, e quindi a mio avviso sarebbe anche corretto andare a distinguere sulla base dei fatturati. Tra l'altro, questo permetterebbe anche di dare un premio, appunto, a chi ha sempre dichiarato tutto e non ha, diciamo, ha un fatturato che corrisponde esattamente alla sua attività. Perché... Infatti, proprio come Federturismo, noi ci siamo proprio concentrati sulla richiesta di aiuto basata sulle percentuali di perdita del fatturato. In modo questo che lo trovo corretto. Sì. Allora, grazie ambedue, Enrico Netti del Sole 24 Ore, Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria. Da Sebastiano Berigioni le auguro di un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Puoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.